English Bit di Giulia Crivelli. Hangout, Google Hangouts, Meet versus Zoom. Which conferencing tool is better for you? Si intitola così la recensione che ho trovato su un sito di consigli tecnologici che ai tempi del coronavirus viene aggiornato ancora più del solito. Confronto tra Google Hangouts e Zoom. Quale dei due strumenti per teleconferenza è meglio per te? La parola che ci interessa è Hangouts, il nome scelto da Google nel 2013 quando lanciò questo strumento, oggi più che mai utile e utilizzato. È il plurale di Hangout, sostantivo non molto usato a dire il vero, che significa posto dove si ha piacere di stare o passare del tempo. Più interessante e molto più diffuso è il verbo to hang out, phrasal verb irregolare che viene da hang, to hang out, hang out, hang out. In italiano potremmo tradurlo con accompagnarsi, gironzolare, frequentare, ciondolare, nel senso di andare in un luogo senza avere un vero scopo. The local kid hang out at the mall. I ragazzi del posto ciondolano al centro commerciale. To hang letteralmente vuol dire pendere o appendere e come in italiano ha tanti usi. Hang your coat on the hook. Appendi il tuo cappotto al chiodo. Have you hung out the washing? Hai steso la biancheria? There were several expensive dresses hanging in her closet. C'erano diversi vestiti molto costosi appesi nel suo armadio. Per una delle tante stranezze dell'inglese, to hang significa anche impiccare e in questo caso è regolare. They hanged him after a very quick trial. Lo impiccarono dopo un processo molto breve. To be hanged significa essere impiccato. He was the last man to be hanged in his country. After that, they changed the law. Fu l'ultimo uomo a essere impiccato nel suo paese. Poi cambiarono la legge. Tra gli idiom ci sono hang in there, resisti, let it hang out, lasciati andare, hang tough, sii risoluto. Tornando al phrasal verb to hang out, aggiungiamo che da hang se ne possono fare altri. You hang around here in case he comes. Resta nei paraggi nel caso arrivasse. I was sure she knew the answer, but for some reason she hung back. Ero sicura che sapesse la risposta, ma per qualche ragione non si fece avanti. Now, hang on a minute. You can't really believe what you just said. Aspetta un attimo, non puoi essere davvero convinto di quello che hai appena detto. After I hung up, I remember what I wanted to say. Mi ricordai di quello che volevo dire solo dopo aver messo giù la cornetta, posto fine alla telefonata, ai tempi del cellulare.